difficile, lo so. Però è mia tua. Musica allo stato puro. Ti ripigli di sicuro. Sarebbe bello essere nuvole e avere un mondo da inseguire. Fermarsi solo un attimo e se c'è noia scomparire. È il programma col cuore di un bambino. È il cammino di Gigi D'Agostino. Musica più lenta che marcia, che spera, veloce e più lenta, violenta, sincera. Musica più lenta che marcia, che spera, veloce e più lenta, violenta, sincera. Chi viaggia poco resterà piccino. Il cammino di Gigi D'Agostino. Buongiorno. Benvenuti. Se volete mandare le vostre dediche, il numero di SMS è 333-64-67-662. Penso che posso ballare con questo casino, mi posso esaltare. Al ritmo del lento violento, il cuore mi batte e vuole ballare. Accendo la radio a quell'ora perché c'è un maestro che voglio ascoltare. Il cammino è lento violento e con un messaggio da catturare. Dal ritmo più duro a quello più dolce io mi farò trasportare. Perché quello che conta non è diventare, ma è solamente amare. Amare la musica di questo cammino che non segue mode come un cretino. Signore e signori, signore e signori, dirige da vestire. Siamo la terza C del Bertarelli. Facci vibrare le chiappe. Sì, dai, dai, dai. Però... dai. Gigi, fammi ascoltare Ginnastica Mentale. Mi tira sul morale. Angelito dalla provincia di Bologna. Fatico molto a passare da una condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica Mentale. Ciao Gigi, voglio sentir sta cassa che me scassa. Vino di Vico Forte. Modo giusto io, vai con la cassa. Ginnastica mentale. Arriva da lontano ed è sempre più vicino. Lui arriva da Torino, è Gigi D'Agostino. Ginnastica mentale. Fatico molto a passare da una condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale. È arrivato un messaggio bello bellissimo da un papà. Da papà Giorgio. Un bacio ai miei due tesori Carlotta e Tommy. Carlotta e Tommy. Carlotta e Tommy. Carlotta e Tommy. Arrivano tantissimi messaggi da genitori e figli, da figli e genitori, da genitori che scrivono ai figli, da figli che scrivono ai genitori. Muovete. E questa cosa è meravigliosa. Il cammino è una grande famiglia. Che meraviglia. Non bisogna rinunciare a un sogno perché c'è bisogno di tempo per realizzarlo. Agosto! Non si è capito. Infatti ho letto male. Non bisogna rinunciare a un sogno perché c'è bisogno di tempo per realizzarlo. E tanto il tempo passa lo stesso. Amedeo. Che dici? Era Amedeo, è uno forte Amedeo. Il compleanno di Alvaro e Claudio, Italo Espano e Chimico Siculo, vorrei dedicare loro Please Don't Cry e dire di fare in modo che le lacrime non corrodano mai la bellissima roccia del loro cuore, oscurando la radiosa luce del loro sorriso. Auguri di buonissimo compleanno da Mare Euterpe e dagli Smiles Makers. Aspettiamo la torta e un generoso assegno. Ti amo. Sono per tutto. È tutto quello che so. Spettacolo, frate. Bella Gigi. Il cammino di Gigi D'Agostino. Reparto pelle d'oca. Sono Claudio di Pavia. Ti sto ascoltando dal mio trattore. C'è il trattore. Sì. Fai un saluto alle tre ragazze che tutti i fine settimana sono al portichetto. Siete molto carine. allo stato puro. Siamo Paola, Zu, Lu e Fe. Paola, Zu, Lu e Fe. Minchia. Abbiamo un problema irrisolto. Tipo? Perché non mandi mai i nostri messaggi? Porca bindella. Che dici? Salutaci. Sì, dai, dai, dai. E ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. E basta chiedere, io sono qua apposta, a disposizione. Sono Max, fammi ascoltare Foca Loca. Baci a mia moglie Dina. Mariti che scrivono alle mogli, mogli che scrivono ai mariti, figli che scrivono ai padri, madri che scrivono. È bellissimo, è meraviglioso. No, vabbè. D'Agostino, una grande famiglia danzante. Sono un sardo fiero. Vorrei dedicare la versione remix dell'ultimo dei Moicani a un grande e valoroso che ci ha lasciato, Andrea Parodi. Assi miri maistu. Spero non sia una cosa brutta. Il cammino di Gigi D'Agostino. Una fragranza per l'ambiente. Genitori non mi mandano in discoteca. E come mai? Beh, ci sarà un motivo, se devi, il messaggio è incompleto, quindi non ti posso neanche dire il mio pensiero, sempre che a te interessi qualcosa. Vabbè, comunque. Annuncio importante. Le vostre dediche, i vostri messaggi, i vostri pensieri devono essere completi di mittente e destinatario, sennò non va bene così, perché sennò poi non si capisce da chi arrivano e per chi sono le storie che scrivete. È vero, è vero. Si è capito bene? Sì, sì. Spiegazione finita. Com'era? E viva la vita! Bravo. Sono Erika 79. Vorrei dire a mio marito che lo amo tanto. Al mio papà che non c'è più. Grazie di tutto. Patrizia di Torino. Mi potresti dedicare l'Amour Toujours, Rosi da Velletri. Valentino da Forlì, vorrei dedicare una canzone a mia moglie e dirle che l'amo tanto. Sono Alice, da Rimini, sto ascoltando il tuo cammino mentre penso al mio amore Marco. Lo amo. Mi fai ascoltare l'Amour Toujours. I still believe in your eyes. There is no choice, I belong to your life. Because I live to love you someday. You'll be my baby and we'll fly away. And I'll fly with you. Fly Fede e Franci, che comunque vadano le cose, io sarò sempre con loro. Non si può abbandonare la propria vita e loro per me sono la mia vita. Baci, mamma forever. Mamma forever. Ciao. Ci fermiamo un attimo per prendere fiato. Il nostro cammino non è terminato. Si riparte. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Separate. cammino di Gigi D'Agostino, una fragranza per l'ambiente. M2O. Gigi D'Agostino, un suono profondo fa tremare il mondo. Lenta, ta, ta, violenta, ta, ta, lenta, ta, ta, violenta, ta, ta. La sua musica che incanta. Fammi ascoltare il cammino, se puoi. Sì. Un saluto a tutti quelli che, come me, stanno viaggiando. Ma ciao proprio. Bello Fiore 77. Questo è bello, bello, bello. Come si chiama? Bello Fiore 77. Sono legato, frastornato da una storia che non ha più storia, che mi mancherà come l'aria. Sono sputtanato, sangue sul valore che non va. Sarà forse l'alcol che non mangio, né frutta né verdura mai. Sono eccitato al solo pensiero di toccarla come piace a lei. Sono il santo padre che mi fa un gesto, mi raccomando che manda tra di noi. E cammino, cammino nel mio giardino, è come un soldato. Mi chiamo Stefano, dedico il cammino al mio bimbo Ale. Rallentato, sconcertato, sono solo un numero, e alla televisione l'inflazione, preferisco solo, preferisco andare in alto mare, rischiare di restare là, come un faro spento in mezzo al vento e all'umidità. Gigi D'Agostino vi aspettano a colpi di martello in Austria. Sabato 28 ottobre, Disco Fire and Ice, Solden, Austria. Enigma, ta ta ta, dig it up. Siamo stimando che sta suonando Gigi D'Agostino. Un bacio al mio cane Romo, che anche lui ulula al ritmo di Gigi. Francesco dalla Cecchignola. E Romolo è forte. Prego. Saluto da Pierluigi e Nicla. Fra poco Nicla si laurea e ringrazia tutti. A posto. Gigi, al comando dell'82esimo reggimento di Barletta. Sì, vabbè. Mira, escuchame. O mi miri o mi escuchi. Non si può far. Non si può far due cose contemporaneamente nello stesso momentino. Mira, pota. Hola, dai. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Me stava scappando una rima col mio nominio, ma era molto volgare. Me son contenuto, hola pota. Halloween elettronico 2006. il nostro raduno in Svizzera, ma a pochissimi chilometri dalla dogana, quindi vicinissimo all'Italia, o vicinissima è Svizzera e quindi vicinissima all'Italia. È giusto. Vabbè, comunque quella roba lì, spiegagli un po' tutto, dagli un po' tutte le, cioè, informa, ragazza, informa. Martedì 31 ottobre, Meeting Center Iragna, presso il campo sportivo di Iragna, Canton Ticino, Svizzera. Cose buone. A Daniela vorrei dedicare Memories, Angelo da Palazzolo. I never care to sleep waiting for you to go. I think about my dreams before the night was young. So if you leave me now, so if you leave me there, confusion in my brain, I'm sure not trying to understand. Confusion in my brain. Frequenza della benevolenza M2O. Il cammino di Gigi D'Agostino. La radio a colori. Francesco e Simona da Torino, vorremmo ascoltare Ripassa. Vai con la cassa. Ding, pau, passa, cabaça. Bimbao, paca bassa, arau. Se volete mandare i vostri sms con le vostre dediche, i vostri pensieri e i fattacci vostri, dei problemi vostri, e se avete qualche protesta da fare, il numero è il seguente: 3 3 6 4 6 7 6 6 2. Se volete mandare una mail, l'indirizzo di posta elettronica è gigi@gigidag.com. Capito come? Sono Francesco, da una piccola città, Santa Maria la Carità. Taradatata. No, poi dicono. Ho una richiesta da farti. Vorrei ascoltare Elisir perché mi fa impazzire. Eccolo lì. Sono Angio, Gio, Gio, Angio. Che dici? Boh, volevo sentire Elisir. E se puoi, fai un saluto al paese Castelvetrano, Trapani. Ciao. Una carezza, un abbraccio, un pigia pigia, sì. E un colpo di martello a Elena di Potenza, Mario di Sanremo, Marzia e suo marito Max, Jessica e Jennifer di Aquila o dell'Aquila, vabbè di lì, Antonio Ilegna di Lecce, Enrico dalla provincia di Pisa e sua moglie Veronica. È bellissimo, mi piace che arrivano tantissimi messaggi dai genitori. L'avevo già detto, e no, perché mi fa molto piacere. Muovete. E mi piace, comunque, dicevo, i mariti che scrivono alle loro mogli, i cugini che scrivono ai loro amici, ai figli delle mamme che si incontrano attraverso il cammino di Gigi D'Agostino. Questa famiglia, una meraviglia. Dove è andato il vocalista? Perché? No, perché a un certo punto io mi devo fermare, perché sennò poi mi faccio prendere dall'entusiasmo e mi viene da venire, passare attraverso, entrare dentro la radio, attraverso e venire dentro le case, abbracciarvi e baciarvi tutti. Oh! Sì, dai. E no, perché l'emozione mi entra dentro e mi fa esplodere il sentimento. Sì. Il cammino di Gigi D'Agostino è una grande famiglia. Che meraviglia! Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Questo è il cammino di Gigi Cattino. Il Cattino. sono Laura, vorrei dedicare semplicemente a Lisa per i suoi 18 anni. Gigi da Baltino, un altro modo di fare musica. Vorrei dedicare una canzone alla mia amica Lucia, che come te mi dà energie. Monica di Pisa. È forte Monica. Il cammino di Gigi D'Agostino. Musica che unisce. M2O. Ci fermiamo quel minimo, riprendiamo il cammino tra qualche minuto. Si riparte. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Se volete scrivermi, il numero di telefono per mandare i vostri sms è il seguente: 333 64 67 662. Sono Marco di Lissone, vorrei dedicare lo sbaglio agli ex Tamarri che ora ascoltano House. Sono Mary di Mirafiori, Torino. Volevo dedicare lo sbaglio ad Alex, la persona più importante della mia vita. Ti amo immensamente, la tua principessa. Volevo salutare le persone più importanti per me: Giulia, Fede e Lucia, e i miei amici Ale, Fabio, Gio, Marco, Andrea e Pommi. Suona lo sbaglio. Siamo Giusi, Stefi, Anto e Rosa da Molinara, Benevento. Siamo in macchina e ti stiamo ascoltando. Ci puoi dedicare lo sbaglio? E certo. Lo sbaglio lo dedico alla seconda A industriale di Gioia Tauro, Laura. Volevo dedicare lo sbaglio a mio papà Giuseppe. Da sua figlia Jessica, ti ascoltiamo sempre. Grazie. Ogni posto diventa un paradiso se ci sei tu accanto a me. Quando mi abbracci o quando mi prendi le mani, sarò in un paradiso. La magia dei miei giorni sei tu. Ecco perché sei speciale. E lo sarai sempre, fino a quando vorrai condividerli insieme a me. Ti amo. Dedico lo sbaglio al mio amore Vincenzo. Celeste.

cammino di Gigi D'Agostino. Una buona occasione per diventare tamarri.